Buonasera, benvenuti. Ben trovati. Siamo carichi, anche perché l'altra settimana abbiamo fatto, come si suol dire dalle nostre parti, passo. Filarine. Vabbè. Sono tanti i modi. Allora, eccoci di nuovo qui con The Musical Box che riapre le porte, anzi riapre la scatola e ricomincia a rovistare all'interno di successi vecchi, successi di autori vecchi, nuovi, gruppi vecchi e nuovi, per poi riproporveli qui a Radio Cerrano Web. Ti vedo carico questa sera, ti vedo veramente carico. Mi vedo un po' afflosciato invece meglio. No, è vero, dai, continuiamo con questa rassegna. Ma che vuoi, mi fanno cenno di essere succinto. Ah, va bene. Ricordiamo Emilio, tu che sei molto... Oggi è stato pubblicato la morte di Mike Rutledge, il tastierista fondatore insieme a Robert Whitehead, Machine. È un inciso, adesso... Sì, anche l'altro giorno purtroppo è scomparsa la compagna di Marianne Faithfull. Vabbè, comunque noi stiamo facendo un promo su Facebook che presto si concluderà, quindi vi invito a seguirci. Ricordiamo su Radio Cerrano Web, che stiamo trasmettendo su Radio Cerrano Web. Sì, su Radio Cerrano Web, l'ho detto, FM 102.4, quindi... Carlo, cosa ascolteremo? Ah, ecco. Dillo tu, lo sai tu, la scaletta la sai tu, io non allora, lo so di meno. Allora, ascolteremo Mogwai, questo gruppo scelto da Emidio, Jan Segal, musica blues, poi Schiantos, pezzi degli Schiantos, questa è la scaletta di Piero insieme a un grande della musica italiana, Alberto Fortis. Poi tu hai scelto McGinn Clark e... Hillman è bellissima scelta, sempre con la musica british che piace tanto a noi, quella degli anni 80, Broski Beat. Okay. Carlo, Broski Beat. Ti è piaciuto? molto musicalmente spoilerato. Allora cominciamo con Piero, vai Piero. Beh, io sempre in Italia, allora noi cominciamo con il nostro viaggio in Italia, sempre saldamente ancorati in Italia, esattamente oggi a Bologna, per ripescare e riportare alla memoria collettiva una di quelle formazioni la cui popolarità e la loro proverbiale stravaganza, singolarità, rimarrà inalterata nel tempo. Stiamo parlando degli epici e leggendari Schiantos, band cult nella metà degli anni 70, stagione ricca di fermenti sociopolitici e culturali, guidati da un genio folle, magistrale, dotato di un talento inarrivabile, Roberto Frick Anthony, personalità sopra un po' le righe, un autentico visionario, nonché scrittore, poeta e quant'altro, e attore, anche attore, perché ha partecipato a parecchi film. Quell'epoca, mi ricordo Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Brizzi, vero? È vero. Ebbene, confermo. Capiscuola e ideatori del cosiddetto rock demenziale, di cui furono portabandiera, i cui testi delle canzoni erano caratterizzati sempre da una comicità estrema e surreale, ma che volgeva lo sguardo in modo sarcastico e beffardo verso la politica, il sistema di quel periodo. Nascono nel 77 e daranno vita alla musica italiana quel qualcosa in più di cui si sentiva la mancanza, la gogliardia, l'ironia e la dissacrazione, insomma un genere completamente nuovo. Dal loro primo, intanto, il primo estratto dal loro primo album, che si chiamava, anzi dal secondo album, chiedo scusa, si chiamava Monotone, è stato ritenuto, considerato l'album gioiellino degli Schiantos, Largo all'Avanguardia. Largo all'avanguardia, pubblico di merda, tu gli dai la stessa storia, tanto lui non sa memoria, largo all'avanguardia. Che anno ero? Era 78. Monotono. Insomma, gli schianto. Beh, stavano avanti comunque. Erano molto, molto, molto avanti. Avanguardia fa paura. Loro, insieme ai Gazza Nevada, sono probabilmente l'unico prodotto originale della prima ondata del punk italiano. A questo proposito però è necessaria una contestualizzazione storica, perché gli Schiantos hanno avuto la fortuna di trovarsi nel posto giusto e al momento sbagliato. Momento giusto, visto che il movimento del 77 che imperversava, in quel momento, principalmente nell'area giovanile dei movimenti studenteschi che contestava il sistema dominante dei partiti, dei sindacati, faranno... Diciamo che il 77 è veramente un anno spartiacque, no? La storia italiana, stiamo parlando di un periodo storico ben preciso in cui nel 77 gli indiani metropolitani, tutta una serie di movimenti, quindi il movimentismo che tra parentesi usciva fuori anche dagli schemi partitici, credo che da quel periodo lì i partiti sono cominciati ad entrare in crisi. Corretto, è corretto Carlo, grande. Sì. Beh, dicevo, loro sono stati i veri portavoce di quello, diciamo, di quello stato d'animo, di quella stagione, conferendo a tutto ciò una forte connotazione poi politica. Esordiranno nel 77 con l'inascoltabile, l'album, che era un concentrato di rock and roll, punk rock, blues, intriso poi di testi assolutamente nonsense e trasgressione. Nel 78 appunto uscirà il capolavoro Monotono, da cui abbiamo estratto appunto Largo all'avanguardia, con la collaborazione con la gloriosa casa discografica Cramps, famosa Cramps, che annovererà tra i tanti artisti del momento, Finardi, Aria, Camerini, Rocchi e tanti altri. Seguirà nel 79 l'album Pinotto, trainato dal memorabile brano Mi piacciono le sbarbine. E prego. Mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente. Mi piacciono le sbarbine, mi sento deficiente. Yeah. Lo so che non conviene. Mi piacciono le sbarbine, ma poi chi si trattiene? Non conviene. No. Mi piacciono le sbarbine. piacciono le sbarbine, Schiantos dall'album Chinotto, siamo nel 79. Continuiamo con il loro curriculum. Nell'80 segue la rottura e l'uscita di Frick Antoni a causa di discordi con altri membri per la volontà di partecipare a Sanremo, ma verranno poi scartati. Il brano, mi ricordo, erano Fagioli, quindi litigavano prima, come no? Per non andare a Sanremo. Anthony Simbelvin, insomma, disapprovò e quindi si dedicherà a progetti paralleli sia in ambito musicale che letterario, dando vita anche a una carriera libraria. Dopo 3 anni di silenzio torneranno nell'84 con l'album Ti spalmo la crema, ma il momento magico del gruppo si era ormai, diciamo, concluso. Continueranno con una regolare attività dal vivo, mentre poi la notorietà della band resterà sempre confinata a uno status di culto, insomma, che non genera riscontri discografici, non riuscendo ad aggiornarsi nonostante il contesto musicale che era ormai totalmente mutato negli anni 80 e 90. Tra alti e bassi possiamo dire che il loro percorso musicale negli anni 90 e 2000 proseguirà con la pubblicazione di svariati lavori decisamente interessanti. L'ultimo, in ordine cronologico, risale al 2009, Dio ci deve delle spiegazioni, da cui abbiamo estratto Una vita spesa a schivar la fresa. Ma ti posso fare una domanda? Prego. Ma che fine hanno fatto adesso questi degli Schiantos? Beh, poi Frick Antoni morirà nel 2014, sì. Morirà. No, tutti gli altri. Ma gli altri non si sa. Non abbiamo al momento. L'ho messo in crisi. No, ma non abbiamo notizie. Ma non... Vai, ascoltiamo questo brano. Lavoro è parola che proviene dal latino, labor laboris, fatica, sofferenza, pena. Nel dialetto siciliano, come si vedrà, lavorare è travagliare. Nel dialetto napoletano, faticare. Insomma, il lavoro è pesante. Il lavoro è un incidente pericoloso. Ucciderti! vita spesa scrivarla la fresa. Schiantos, l'ultimo album della loro discografia, si chiamava Dio ci deve delle spiegazioni, uscito, apparso nel 2009, in cui gli Schiantos qui non tradiscono la loro cifra stilistica. Nel 2012 Anthony comunica la volontà di lasciare il gruppo per motivi di salute. Il gruppo poi si scioglierà. Anthony morirà nel febbraio 2014. In definitiva possiamo dire che gli Schiantos hanno lasciato un solco profondo, inestinguibile, a testimonianza della loro coerenza ideologica e musicale mai rinnegata e di una rispettabilità artistica assolutamente pregevole e di grande rilievo. È tutto con gli Schiantos. Allora, io direi al nostro regista di mandare il brano mio subito, appena, oppure va bene, e poi ne parliamo. Skyline sailed across the ocean blue, him alone on a desert island, and I've been a guru too. Don't you write her up like that, don't you write her up like that, don't you write her up like that, she's a real fine lady, don't you see? Don't you write her up like that. Allora, credevate fossero i Birds, invece no, però ci siete andati vicini, perché comunque si tratta di un trio che negli anni 70, tra il 77 e l'80, perché poi l'80 si sciolse per volontà di uno dei tre, e cioè il trio è Roger McGinn, Janet Clark e Chris Hillman, forse più conosciuti come McGinn, Clark e Hillman, che poi fecero fortuna con un LP che porta tuttora il suo nome, perché lo potete reperire. E questo gruppo naturalmente però ha un background abbastanza massiccio, perché comunque si tratta di gente che faceva parte proprio dei Birds, Il gruppo fu formato nel 77 e poi insomma ecco hanno collaborato con Crosby, Stills, Nash & Young e con gli Eagles ed hanno dato vita insieme a quei nomi che ho citato in questo momento a quello che viene ricordato come gli albori del vengono ricordati come gli albori del folk rock sì. Folk bene? Sì. Sto andando bene? Wow. Ah, meno male. Convenature country. Convenature country. Sì, vabbè, ma in effetti se uno ha un po' l'orecchio allenato le poteva rintracciare queste venature country. Però questo trio poi ebbe una vita molto molto breve, perché poi una nel 70 sì, fu una parabola, perché poi nel 79 in effetti Clark lasciò la band. Perché aveva grossi problemi di droga e aveva anche grossi problemi mentali, perché poi la droga ti brucia anche i neuroni, e partecipò solamente ad alcune registrazioni degli altri due album che compongono un po' la discografia completa di questo gruppo, di cui vi mando l'altro brano. Parlando di un gruppo comunque che si era fatto le ossa in un ambiente veramente importante, abbiamo citato i Birds, ma Hillman ad esempio era stato un membro dei Flying Burrito Brothers e era stato uno dei membri fondatori esatto, dei Manassas e quindi e quindi ecco li ho voluti riproporre perché spesso i gruppi, questo tipo di gruppi, sai, col passare di tavolo vanno nel dimenticatoio. A me piace, come a tutti voi, come a noi, piace ritirarli fuori, ecco, riproporli a chi magari in quegli anni non era nemmeno nei pensieri dei genitori. Questa è una delle peculiarità di questa trasmissione. Che passa immediatamente. Di riportare alla luce. Sì, dei preziosi smeraldi. Perché tu, come dicevi tu, giustamente poi altrimenti si finiscono ineludabilmente nell'oblio. Questa è la nostra. Voglio vedere quando non faremo più noi questo programma chi porterà. Vabbè, bando alle ciance, passiamo la palla al più giovane di noi. Che vi proporrà delle cose incredibili. A me tocca sempre riportare le lancette della musica. Riportarvi alla realtà. E infatti questa sera vi proporrò vi proporrò degli estratti da un disco uscito un paio di settimane fa. Vedi un po' tu, amici. Quindi siamo due contemporanei. Matusalemme e te. Allora, premesso che io non conosco i brani che portano i miei colleghi e quindi mi delizio con queste riproposte interessanti. Io però, quando parli... Però qualcosa io... sua... Sulla... Vabbè, dai, dimmi. Io quando parli non riesco mai a capire se ci stai prendendo per... oppure se dici veramente... Vero, Piero? Sì, è un po' beffardo. È beffardo. Dai, allora... Volevo dire due cose veloci sul disco che hai proposto un attimo fa. No, siccome ti sembra che bisogna stringere, io ho stretto. No, chiaramente, hai fatto benissimo. No, volevo solo ricordare che questo disco chiaramente era... molto gradevole in effetti, però come hai sottolineato questa era gente che veniva da gruppi mitici, proprio avevano fatto parte dei Birds, che chiaramente erano i Beatles americani in pratica, insomma. E tra l'altro uno dei tre, Clark, è un autore che amo particolarmente, è autore di alcuni dischi solisti veramente notevoli. Quindi sentirli così un po' radiofonici, leggeri. Ti pareva. non ho mai amato molto quel disco, in effetti. Ma proprio per la sua leggerezza. Ma tu guarda un po' chi mi registrò la cassetta di questo disco. Secondo te, Piero, chi me la registrò? Quindi tu me la registri, va bene. No, vabbè. Diciamo che un periodo noi leggevamo delle riviste e seguivamo dei programmi radio che certi dischi proprio te li dovevi comprare per forza, però poi diciamo il tempo mette tutto a posto, dà il valore giusto ai gruppi, ai dischi. Ma questo disco non è un disco da annoverare tra le pietre miliari o tra quelle proprio da... Allora, questo disco è un disco ruffiano. Aspetta, no, adesso mi hai provocato. mi dimagno. No, dicevo, questo è un disco ruffiano sicuramente. Però è anche vero che viene fuori un disco che ha avuto un successo commerciale importante, e infatti, che la cosa a te non ti sta bene per niente. No, assolutamente. Però secondo me ha avuto... Che dobbiamo citare sempre la famosa intervista a Joe Cocker, quando il giornalista gli chiedeva: ma come mai tu alterni dischi importantissimi, sofferti, impegnati, a delle cose molto più leggere, più radiofoniche? E lui come risposta? Ragazzo, devo pur mangiare. No, ma questa la risposta me la diede anche Herbie Hancock all'epoca a Pescara. Quindi la stessa cosa. Mi disse che questa serve perché mi piace, quest'altro serve per mangiare. No, però secondo me il merito importante di questo disco è stato quello di svelare un po' anche il retroscena, il background che c'era dietro questi tre personaggi, no? Perché quando uscirono tutti quanti, quelli non proprio... come dire, da dentro alla musica e a tutto il filone di cui abbiamo parlato, capì che stavano dietro ai Birds, ai Fly Buried Abroad, eccetera, eccetera. Bene, allora, come annunciavo, questa sera vi presento un gruppo nuovissimo, è il nuovo dei Mogwai. che si chiama The Bad Fire ed è uscito effettivamente un paio di settimane fa. Ma di questi ci ricorderemo? Probabilmente sì, sì. Probabilmente sì, anche perché loro diciamo sono dai primi anni 90 sono sulla scena e tra l'altro questo ultimo mi è sembrato anche particolarmente interessante, quindi sono ancora in palla. Questo è un gruppo scozzese che appunto nasce nel 95 e con un organico di tre soli elementi. Scusate il mio inglese, questi si chiamavano Stuart Bryant White alla chitarra e poi il leader. Poi c'era Dominic Aitkinson al basso e Martin Ballock alla batteria. Pochi mesi dopo reclutarono un secondo chitarrista, un certo John Cummings. E attraverso varie evoluzioni stilistiche i Mogwai diventano il gruppo post rock per antonomasia. E diciamo che la loro musica si basa su lunghi brani chitarristici che alternano momenti morbidi e dilatati a vere esplosioni di fragore sonico secondo la formula Load Quiet Load. E come dicevo sono autori di una decina di dischi, questo se non sbaglio è l'11esimo. Ricorderei solo due grossi capolavori nella loro discografia: Young Team del 97 e Les Revenants del 2013, che mi sembra che sia una colonna sonora di un film. Comunque diamo spazio anche alla musica. Da questo loro ultimo disco ascoltiamo un primo estratto, un brano struggente, ricorda un po' certe cose dei Cure, la malinconia dei Cure. Il brano si chiama Pale Vagan Hip Pain. Thank you. ha lasciati un po'. No, ci ha lasciati bene. Io ha lasciati bene. No, una cosa che mi. No, tu lo sai, poi queste atmosfere mi, certo, mi piacciono, certo, tanto. E devo dire poi che in un mondo fatto, un mondo musicale fatto di tanto rumore e tante parole buttate lì, queste ti fanno riconciliare un po' con la musica. Che tu mi dicevi. Stavamo dicendo così a microfoni spenti che abbiamo letto varie recensioni di questo disco. E qualche recensore sottolineava il fatto che questo disco viene dopo un momento di sofferenza per uno dei componenti importanti del gruppo, che ha avuto la figlia piccola con problemi gravissimi. Pare che si sia salvata proprio per un pelo, come si suol dire. Quindi... No, la cosa che mi... Scusa se ti interrompo. Prego, prego. La cosa che mi intriga, che mi è piaciuta molto, no? Nella loro intervista qui, c'è cioè su Onda Rock, andatevela a vedere, loro esordiscono dicendo: la nostra unica arma è l'istintività, è per questo che non ci sentiamo assolutamente intellettuali né pretendiamo di essere artisti. E questa la dice lunga, no? sul carattere di questa band. Poi insomma, metteteci pure che sono scozzesi, la cosa intriga molto, così come il fatto che loro, ne stavamo parlando anche con Piero, io ci sentivo i Dedican Dance tanti anni fa, ma i Cure, cioè, predominante, però parlano loro degli americani Slint, che sarebbero i loro punti di riferimento, anche se loro sono molto più melodici, no? Pare che non usino tante parole. No, i loro brani spesso sono grossa parte del brano è strumentale, poi a volte è quasi recitativo il loro canto. Allora, prima di presentare un altro estratto da questo disco, che ripeto noi abbiamo trovato veramente interessante, per descriverlo meglio mi faccio aiutare da Aldo Chimenti nella sua recensione a Rockerilla, dove lui lo descrive così: calarsi nelle coltre mesmerizzanti del Bad Fire è come attraversare i gironi di fuoco e di ghiaccio di una frontiera onirica affascinante, pervasa da cicli di armonie tentacolari, da strategie strumentali che tingono geografie cinematografiche da sogno e forgiano prospettive post-rock dai contorni siderali, musiche la cui struttura narrativa è espressione di un altrove semantico, scevro da vincoli spazio-temporali, ascritti ai dettati di un teorema algebrico che non teme uguali. Aldo Chimenti. Sta a posto. Secondo brano, questo brano diciamo che può ricordare anche un po' il krautrock. Si chiama Hammer Room. Thank you. vai. Questo è il brano I'm a Room dal magnifico nuovo album dei Mogwai. Musica cosmica. Anche, anche. Qui si riesce un po' a cogliere un po'. Si riesce, dillo con parole tue. Ti riporta un po' appunto quando ai Popol Vuh, un po' ai noi però ai Tangerine Dream. Però ci avete fatto caso che è noi vero o no che sono stati abbiamo questo maledetto vizio tutti e tre, sì, di citare sempre. Io dici, ma allora mi ricordo questa cosa, mi ricordo questi ricordi che era poi, vabbè, erano poi le sfide che si facevano anche dei ricordi, quando ti ricordi quando come eravamo alle radio, eccetera, sì, sì, oppure tra i cultori di musica, io ci risento questo. No, ma è un modo anche abbastanza comodo per inquadrare, per far capire subito, diciamo, il genere, per descrivere quello che stiamo proponendo. Ci abbiamo un po' il vizio dei critici musicali. Eh già. Adesso sono curioso di risentire il nostro Piero che ci ributta dove? Italiano più che mai oggi, Made in Italy, la puntata. E quindi girovagando ancora per l'Italia, facciamo tappa a Milano. A Milano per tributare oggi, cambiando completamente genere da quelle di prima, di schiantos, rotta, sia rotta che rotta musicale, per tributare il giusto riconoscimento a un artista esponente poi rilevante del cantautorato italiano degli anni 80 soprattutto, molto in auge appunto negli anni 80, e cioè Alberto Fortis, che tra l'altro tempo fa ha compiuto gli anni, mi pare 69 anni. Debutterà in maniera dirompente nel 1979 con l'album omonimo, un album omonimo accompagnato addirittura, dovrebbe essere come dalla PFM, dalla premiata Forneria Marconi, riscuotendo subito un ampio successo grazie ai cavalli di battaglia come Milano e Vincenzo, A voi romani, che sono state delle definite celebre invettive, Filippi, che proprio in cui si distingue la sua vena sarcastica e polemica. Da questo primo album, che è stato un album di successo strepitoso, appunto, questo cavallo di battaglia di Fortis, Milano e Vincenzo. Milano sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così. Vincenzo io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma cretino, e poi viva Roma, che ne sa. Vincenzo io ti sparerò, sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro amici non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme. Lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. Yeah. Vincenzo, io ti ammazzerò, da questo primo album che lo ha senz'altro di sicuro consacrato. Ok, ma poi si è capito chi era sto Vincenzo. Ma certo, poi c'è una, ecco, si lega intorno a questa canzone, si racconta. No, aspetta, volevo prima stato, che particolare prego, spiegazione, prego, prego. No, volevo semplicemente dire che questa storia è talmente... Si trascina ancora oggi. Sì, perché sì, proprio la scorsa settimana ho letto un'intervista, credo sul Corriere, di Fortis, che diceva che c'è ancora, anche sui social ci sono i romani che gli vengono addosso. Infatti, ma vero, perché, Pie? Perché? Perché questa, diciamo, questa frecciatina era rivolto, era riferito a un manager, a un, grande, a un produttore, ah, dei produttore. Produttori, Micocci, che poi è stato il grande scopritore, talent scout di tutti i maggiori esponenti del della scuola studio, romana, diciamo, degli anni 80, anche degli anni 80 e 90. Però si riconcilierà con Micocci nel 2006, quando Micocci pubblicherà un'autobiografia intitolandola appunto Vincenzo io ti ammazzerà, che poi avrà la prefazione di Fortis. Micocci poi morirà nel 2012. Questo è il Vincenzo della il situazione. Vincenzo di cui tanto oggi che ancora... se fosse stato scritto qui da noi invece della V avremmo messo la M. Continuiamo con Fortis. Fu poi però il terzo album, La Grande Grotta, dell'81, che lo consacrerà anche questo a un imponente successo commerciale e notevole anche acclamazione critica. Dopo aver attraversato gli anni 80 accompagnato da un proficuo riscontro di pubblico che sia che di critica, Fortis si inaugura gli anni 90 continuando a sperimentare nuovi generi, cambiando direzione musicale per proporre nuove sonorità nei successivi decenni. Inciderà poi il terzo album nell'arco dei 90 e sarà così per gli anni, inciderà cioè ben tre album nell'arco dei 90 e così anche dei 2000. Comunque soffermiamoci sull'album La Grande Grotta, da per cui, me il suo capolavoro La Grande Grotta, da cui abbiamo oggi estrapoliamo Settembre. Ai settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre partirò e mentre il giorno sparisce primavera verrà, sarà dolce e nervosa, ma non mi scapperà. Salirò sul battello e non la fuggirò, sarò avvolto per sempre, la bacerò. E i suoi lunghi capelli non li rivedrò più, ma il settembre lontano, dalle un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà. Ai settembre che sarà, ho lasciato tutto a te, e dille del mio amore, e dille che se può, poi io potrò aspettare e l'accompagnerò, ho dentro il mio giardino e se te la terrò, ho la vicino sempre sempre e te dirì, e le aspetterò, ma il nemico va sempre, si cattura così, apri bene la porta, fallo entrare da te, lei l'ha fatto a settembre, lei l'ha fatto con me, e se nella sua testa un rasoio terrà, taglierà i miei pensieri come quando vorrà, userà i suoi capelli e io la pettinerò. E prima che sia settembre il mio sangue darò e lascio tutto a te. Oh, dille del mio amore, oh, dille che se può. cori gospel sotto, il sottofondo. Alla grande grotta. Sembra di stare all'interno di una chiesa battista. Bene, bene. Immagina i Santa. Dalla grande grotta, terzo album, 1981, settembre. Dicevamo prima, per riprendere il discorso, saranno caratterizzate da 3-4 album, sarà così anche per gli anni 2000. L'ultimo con cui poi riceverà comunque ampio elogio sia dalla critica specializzata, saranno anni intensi, pregnanti di progetti, perché oltre alla sua attività nel mondo della musica, Fortis concilia anche quello di regista, poeta e scrittore, impegnandosi anche nel sociale. In ultima analisi possiamo dire questo, possiamo dire in definitiva un curriculum, quello del Fortis, indubbiamente apprezzabile. Curriculum Fortis. Beh sì, coronato da tanti riconoscimenti, decisamente. Ma lui dice di no, io ho letto un po' di interviste. Beh, riconoscimenti ne ha ricevuto parecchi, eh. Ma lui si sente un po' sottostimato, credo. Se si leggono bene le sue, tra le righe delle sue interviste, crede. Di aver meritato, che avrebbe potuto meritare qualcosa di più. Detto ciò, è un artista oggi meritevole di essere riportato anche lui alla luce, di essere rivalorizzato. Dall'album 2000, del 2014, l'ultimo, dodicesimo album in studio, Tu lo sai, in duetto con Biagio Antonacci. Tu lo sai che verrò e parlare. giorni, quando il tempo ha scelto te, rivelarsi non si può, conoscenze che farai. Sai, Alberto Fortis, dodicesimo album in studio 2014, in duettava con anche con Biagio Antonacci, anche se Biagio Antonacci appena si percepiva un po' in sordina. Prodotto questo album, dicevamo, da Lucio Fabbri. Infatti il violino era di Lucio Fabbri. Eh sì. Puoi andare col mio brano, lo presenterò dopo, vedrete un po'. Ascolterete più che vedrete. Tell me why. Thank you. Allora, come potete ben riconoscere dall'ugola di Somerville, che è il cantante dei Bronski Beat, vi ho proposto i Bronski Beat. Ma va? Ma va. Allora uno potrebbe dire, ma perché questa scelta? Vabbè, questa scelta perché comunque questa musica che sentite dopo, che sentite adesso in sottofondo e quella che sentirete più là, ha un po' caratterizzato come colonna sonora gli anni Ottanta, sono andati fortissimi con questi, con Why, che è questo brano qui che avete appena ascoltato, e col prossimo che vi proporremo. Perché ho scelto i Bronski Beat? Non li ho scelti solo per la loro bravura, essere un po', sì, no, ma più che altro sì, bravura, ma anche aver colto l'aria che tirava in quel periodo e l'aver imposto anche come tematiche, tematiche importanti, che erano quello un po' dell'omofobia e dell'omosessualità. Tutte e tre omosessuali, provengono appunto da una, dalla Scozia, da, se non sbaglio, da Glasgow, vabbè, e si sono costituiti nell'83, e sia Why, quella che avete appena ascoltato, sia Small Town Boy, che è forse quella che l'ha fatto, li hanno fatti conoscere alla moltitudine, e mettono in evidenza, sbattono in faccia anche al Regno Unito ben pensante, ma in Europa anche ben pensante, il problema dell'omosessualità. In particolare, se qualcuno non lo ricorda, e se no andatelo a vedere su YouTube, il video di Small Town Boy, no? Parla di questo ragazzo che abbandona la sua città e mentre col treno sta andando via dalla sua città ripensa ai motivi per cui lui è andato via, e quindi al fatto che è stato insultato e malmenato da alcuni in una piscina, alcuni omofobi, e poi la polizia lo ha ripreso, lo ha riportato a casa quasi come il colpevole, non come la vittima di questa violenza, di questi soprusi, e quindi lui, andando via, dice: devo andare via. E allora io credo che sia giusto anche far capire a quelli che magari adesso determinate tematiche le frequentano tutti i giorni, o sembrano cose del tutto normali, che comunque c'è stato qualcuno, ormai questi sono 30, tabù ormai, 40 anni fa quasi, perché stiamo parlando del 1983, con la musica, con la cultura, li poneva in evidenza. Bravi Bronski Beat, soprattutto per quello che avete fatto capire e per quelli che avete fatto ballare, perché sono anche tanti. Vai col prossimo. We'll be right back. loro sono stati in qualche modo identificati come uno dei gruppi che seguiva il cosiddetto, la cosiddetta scia del synth pop, note negative che Steve Brodsky è morto qualche anno fa, così come Larry Steinbeck, che è il terzo componente. Uno purtroppo è morto di cancro, e cioè Steinbeck, mentre Brodsky è morto, purtroppo è morto in un incendio, perché lui aveva avuto un problema, un ictus, non è potuto scappare. E mentre Jimmy Somerville, Jimmy Somerville abbandonò poi i Brodsky Beat per intraprendere la sua carriera, esatto, con i Communards, anche questo gruppo che potremmo riproporre prima o poi. Palla subito a Emilio. Bene, questa volta sottoscrivo tutto, tutto quello che hai detto. Non mi fido di te. Non ho critiche da fare né ai Brodsky Beat, né a questo, non le hai nemmeno ascoltate, questo per bel quando disco. Si sono piaciuti. Ce l'ho, fa parte della mia discografia. Ecco. Allora, il tempo è tiranno. Vai. Vogliamo chiudere questa puntata con alcuni brani di un chitarrista inglese, Ian Seagal, che è venuto un paio di volte ad Atri. La prima volta anni fa, in un'edizione del Green Hills in Blues. Me lo ricordo, credo che gli ho fatto anche qualche foto. Ringraziamo il nostro amico Vincenzo che ci porta questi artisti. E l'abbiamo avuto qualche settimana fa, in un concerto. Sta bene? Pare di sì, sta bene. Questo è importante. Quindi non ci dilunghiamo sulla sua carriera, cantante, compositore, chitarrista, leader di band. E lui è appassionato di sonorità americane, soprattutto di blues. E quindi stavo dicendo che ci ha regalato un bellissimo concerto, mi sembra il 10 o l'11 di gennaio, e da questo concerto abbiamo estrapolato alcuni brani che vi proporremo. Il primo si chiama Revelator, John the Apostle. Seagal, Revelator, primo estratto da questo Live ad Atri. Secondo estratto sulla ruota di Roma. No, sulla ruota di Radio Cerrano Web. Secondo brano è una bella ballata un po' alla Van Morrison, si chiama Falling on Down Again. Ma c'erano persone al concerto? No, dillo, hai troppo. Sì, vedi che mi fai segno la testa. No, era la sala era piena. Lo so, ma io te lo chiedevo per... Just buy a few drinks. They can't see. siete bambino. Yes you have. Down Again, bellissima ballata di Ian Seeger. Adesso chiuderemo la trasmissione con un altro suo brano, sempre dal concerto di Atri. Di questo ultimo brano non vi dirò il pezzo, no, cioè è una cover, non vi dirò il titolo. Vediamo chi lo individua per prima. Facciamo il concorso, potete telefonare e si vincerà un CD, eccolo qua, del concerto di Atri. Ce l'abbiamo in anteprima e quindi che lo possiamo regalare. And so it was later, as the miller told his tale, that a face at first is ghostly turned a whiter shade of pale. She said there is no reason, and the truth is there to see. And I wandered through my playing cards, but she would not let me be. A 1 in 16 Vestal Virgins were leaving for the coast. Though my eyes were wide open, they might just as well have been closed. And so it was later, as the miller told his tale, at first just ghostly turned. turn to water. Shit, I pay. Turned to water, shade of pale, and so it was later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly. Questi erano i Dick Dick, è vero? Hanno indovinato subito i miei collaboratori. Questo classico Procolarum. No, che Procolarum, Dick Dick. In inglese? Ho spento già la luce. Emilio, però bene. C'è da rimarcare doverosamente che in questo live suonava... Sì, in diversi brani in diversi c'è la preziosissima collaborazione di Alex Ricci Melchiorre. Bene, anche questa volta siamo arrivati alla conclusione del programma. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e seguite Radio Cerrano, che noi poi andremo con il podcast su Spotify. Ci saremo su Internet Archive. Spotify ci ha notato tutto. Che gli abbiamo fatto? Non lo so. Non va. YouTube sì. Su YouTube ci potete fare. YouTube, sì. Se no, bene. Fate quello che vi pare, che a noi non è che poi. E poi lo potete ascoltare la notte, da mezzanotte alle 6, tutti i programmi di Musical Box e altri. Ok. Quindi a quel punto. Non a rotazione, ma in random mode. Quindi a quel punto sarebbe Musical Night. Notte rock. Appuntamento a giovedì. Giovedì prossimo. Quindi un abbraccione, salutone sì. A tutta la community, sì, sì, dei nostri sì. Radioascoltatori. Piace, la community, vi piace. Andate via. Va bene. Salutoni, alla prossima. Buona serata, grazie di tutto.